Ed eccoci, nuovamente in diretta, mercoledì 22 novembre, quando sono le 7:47 minuti. Ne approfitto per leggere un altro messaggio che è arrivato a proposito di rassegna stampa. È l'unica trasmissione che non può essere riascoltata in differita e posso capire che sia giusto, perché deve invogliare la gente ad andare a comprare i giornali e leggere gli articoli e non ascoltarli a sbaffo. Solo che all'interno della trasmissione spesso ci sono dei servizi giornalisti e interviste fatti autonomamente dalla radio, non letti da altri giornali, ed è un peccato non poter riascoltare almeno quelli, scrive Roberto. Avremo modo intanto di segnalarli e di rimediare. Potrebbero essere poi sul nostro sito www.radiocittafugico.it. Intanto grazie e ti auguro una buona giornata, Roberto. Poi sono mille le interpretazioni a proposito della funzione di una rassegna stampa. Magari ne parleremo. Ora è il momento di altri suoni insieme ad Angelica per alzare l'asticella dell'ascolto, o quantomeno la curiosità di un ascolto di musiche così dire, per così dire, inconsuete, anche sempre con una qualità di ricerca importante. Intanto faccio un piccolo inciso per l'appuntamento di domani, giovedì 23 novembre alle 19:30. Super veloci, giocosi, inventivi e insaziabili, suonano come immersi in un caos formato da dispositivi elettronici e da suoni di batteria, impegnati a scambiarsi idee e cose strane, con grande senso di tempismo affiliato a un umorismo, mentre creano tempeste elettroacustiche dalle mille sfumature. Questa è una recensione appunto che arriva a proposito dell'incontro di giovedì, che vede protagonista le Marquises del Museo del Centro di Ricerca Musicale per Angelica alle ore 19:30, Emily Scriegli alla fisarmonica, giradischi ed elettronica, e Tom Malmadier alla batteria, a cura della stessa Emily Scriegli. Spero di averlo pronunciato bene. È una collaborazione tra Belgio e Francia e ho ascoltato alcune parti di questi musicisti, di questi protagonisti di un'avanguardia musicale che, esattamente come è stata definita, molto giocosa e soprattutto con una ironia e una capacità di coinvolgere con questa apparente stranezza che diventa assolutamente e in maniera importante musica. E quindi ribadisco l'appuntamento, è domani giovedì 23 alle ore 19:30 al Centro di Ricerca Musicale Les Marquises. L'approfondimento è sulla vigilia di weekend. Abbiamo spazio oggi e quindi lo diamo. Grazie a Walter Rover. Già l'abbiamo contattato per un appuntamento riguardante la Minimal Music per l'incontro di venerdì 10 novembre. Per quanto riguarda un naturale percorso, arrivando ai giorni nostri, nella Minimal si parla di techno, esattamente degli albori della Detroit Techno, e sarà venerdì 24 novembre al Museo della Musica, in questo caso Never Stop a Music That Resist. Ritroviamo la protagonista Jacqueline Co, questa volta non con artisti che hanno portato la storia del minimalismo dai tempi che furono, come Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, Lamont Young e tanti altri, ad esempio Pauline Oliveros, ma arrivando alla Detroit Techno, certo, ho detto dei tempi che furono, ma assolutamente certe sonorità seminali restano presenti, arrivando a quella che è una espressione elettronica spesso confusa con musica unicamente da club. La ricerca assolutamente ci porta a considerarli in maniera diversa, artisti come Carl Craig, artisti come Jeff Mills, e all'interno di Angelica per la serata di venerdì 24 dalle ore 18 ci sarà la possibilità, con tanto di proiezione, di dare approfondimento a questa musica e a questo genere, a questa corrente, a questa cultura che non è solo club culture. Ascoltiamo da Walter per appunto curatore degli appuntamenti dedicati alla minimal music a Detroit Techno, quello che concerne l'appuntamento di venerdì 24 al Museo della Musica per Angelica. Museo della Musica, per quanto riguarda Angelica, un appuntamento che dà una continuità con un motivo di conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa insieme a Walter Rovere, che è qua al telefono con noi. Buongiorno Walter. Buongiorno. La protagonista Jacqueline Coe, ancora vedo qui nel programma presente, in questo caso però con un discorso che si avvicina più ai giorni nostri rispetto a quello precedente. Di che si tratta, Walter? Sì, diciamo che è un dittico fra il film del 10 e quello del 24, perché la regista Jacqueline è la vedova di Daniel Coe, di cui abbiamo già parlato, il critico, organizzatore dei concerti, che fu il primo a portare in Francia da esponenti di free jazz come Sun Ra e Albert Tyler a tutti i minimalisti, la Monty Young, Terry Riley, eccetera, sui quali appunto abbiamo visto il film Color of the Prism, il 10. Prosecuzione ideale però del loro interesse per le musiche ripetitive e minimali è stata la musica techno. Loro da cinquantenni hanno iniziato a frequentare i rave in Francia e Jacqueline ha dedicato 3 film alla scena musicale di Detroit, che è la città, come sai bene, che ha dato i natali alla Motown, ma anche all'inizio più o meno dell'80, un genere che in realtà è una storia sorprendente, perché è nata la passione di questi giovani studenti universitari intellettuali neri per l'elettronica europea, innamorati dei Kraftwerk, ma anche di Gary Newman, Visage, anche della Italo Disco italiana Alexander Robotnik, Klein MBO, eccetera, e hanno fondato questo, diciamo, nuovo genere che è stato splendidamente sintetizzato da Carl Craig, uno dei loro esponenti, che ha definito come se George Clinton e i Kraftwerk rimanessero chiusi in un ascensore con un sequencer come unica compagnia. Quindi hanno fondato questa musica che appunto fonde l'elettronica di matrice europea con il funk, e fondarono un'estetica che oggi chiameremo decisamente afrofuturista, diciamo di sognatori di mondi utopici che trascendono, come Sun Ra e George Clinton, la pressione subita sulla terra. Nella fattispecie Detroit era diventato la culla dell'industria automobilistica, era crollata, le industrie automobilistiche si erano trasferite altrove, quindi è diventato un posto di assoluta povertà e disoccupazione, e loro hanno creato questa musica che poi, anche se diciamo nata dall'ispirazione europea, trasformata da loro e poi è stata di nuovo esportata in Europa, è diventata un'enorme influenza su tutta la techno in Germania, in Olanda, in Inghilterra, ma proprio per decenni dopo si sente ancora l'influenza delle loro musiche. Più invecchio e più amo la techno. Questo l'ho letto non so dove, ma mi è rimasto impresso, perché in effetti anch'io ero molto così critico, una certa distanza, no? E poi con la musica elettronica, con il minimalismo, con una ricerca che è passato anche attraverso delle label importanti e la città di Detroit, tra appunto il Michigan e la Germania, la scoperta di suoni che sono sì ripetitivi ma molto particolari e interessanti. Abbiamo selezionato, dico abbiamo perché il DJ e il produttore che state ascoltando è anche uno dei miei preferiti, è Jeff Mills con il brano Gamma Player del 1995. Interessante la definizione di un altro grande come Jeff Mills, Carl Craig, come se George Clinton fosse rimasto chiuso in ascensore coi Kraftwerk e unica loro compagnia è un sequencer di produzione musicale, per cui l'uscita della techno con questo flirt, questa attenzione per quanto riguarda la ritmica, allo stesso modo la costruzione elettronica che stava prendendo piede in Europa in maniera molto forte e importante, ha dato adito a queste sonorità di cui Jacqueline Coe, per quanto riguarda il suono minimale, certamente grazie anche al marito è diventata appassionata e riporta ad Angelica testimonianza anche con proiezioni di cui Walter Rovere è curatore. film che si concentra su quattro personaggi fondamentali che sono Juan Atkins, Derek May, Carl Craig e Jeff Mills. Parla soprattutto di economia della musica, di produzione e distribuzione. Mostra come questi autori, partendo da strumentazione a basso costo e fondando le proprie etichette indipendenti, stampandosele in loco, in piccole stamperie di Detroit, si siamo costruiti appunto una propria utopia fai da te. Ed è un film che diciamo interessante non solo perché è interessato a questo tipo di musiche, ma anche proprio perché è interessato al do it yourself, del farsi la musica e venderla in proprio. Infine è un documentario che è stato proiettato in anteprima all'Auditorium del Louvre. Lo cito per dimostrare che insomma all'estero anche queste musiche che magari sono considerate diciamo solo roba di discoteca invece hanno uno status culturale importante, al punto che poi Jeff Mills è stato nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere in Francia, visto che si lavora spesso con Saint Pompidou. E questo va a fare eco un po' a quello che ho letto qualche giorno fa: più invecchio più mi piace la techno, ma non è esattamente sì. Così, però permettimi questa ironia. Grandi protagonisti, certo, in sonorità appunto che arrivano poi in Germania, la Compact Record, l'importanza di Detroit per la musica, bella la definizione afrofuturista per queste sonorità così scarne ma così piene di intensità. Intanto io ti ringrazio tantissimo, Walter. Grazie per questa voi. Pillola di approfondimento a riguardo Detroit Techno, Never Stop a Music That Resists, venerdì 24 novembre alle ore 18 al Museo della Musica. Ti auguro buona giornata. Bene. E ovviamente ti do appuntamento per un altro incontro. Ciao Walter. Grazie. Questo è String of Life, Derek May. Sì, arrivo Silvia, adesso apro per quanto riguarda il voltiamo pagina, arrivo. Consultate tutto il programma di Angelica, come il logo e come ogni volta ho motivo di approfondimento di presentazione, centro di ricerca musicale. Vi è un atleta, salto con l'asta, che trova motivo di superare un'altezza importante nella curiosità di questi suoni. L'appuntamento è dedicato alla Detroit Techno, venerdì 24, Museo della Musica ovviamente a Bologna alle ore 18. Grazie a Walter Rovere, curatore della serata, e qui quindi l'appuntamento con Angelica sarà in un altro spazio di altri suoni su Radio Città Fujiko. A breve voltiamo pagina, quindi 333 180 9494, ci sta sempre bene ricordarlo, eh? A tra poco!